Spesso bastano poche sillabe per esprimerti quello che dice il cuor, cuor, cuor, quando vedo te. E nell'estasi di una musica io ti mormoro trepido, senti il cuor, cuor, cuor, quello che ti dice. Trema le mie labbra allor, parlano d'amor. Va, va, baciami vicina con la bocca piccolina, dimmi tam, tam, tam, ti baci in quantità, ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Tu sei birichina, maestà, sta, tanto deliziosa ciò che ti interessa, che cos'è? Tere, tere, tere, tere, tere, e via, va, bio, bu, e sillaba con me. Via, ve, bio, bo, dimmi tu cosa sono queste sillabe d'amore. Va, va, baciami vicina con la bocca, bocca piccolina, dammi tam, tam, tam, ti baci in quantità, ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Da da da da da da da da.